Parliamo di lavoro. E parliamo di lavoro necessariamente quest'oggi con Marina Calderone, Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro. Presidente, buongiorno e grazie di essere con noi quest'oggi. Buongiorno a voi, grazie veramente dell'invito. Allora, ci sembrava doveroso, visto che domani parte il vostro Festival del Lavoro 2020 e naturalmente anche per voi in modalità online. In realtà l'evento si svolge il 23, se non ho capito male, ma domani c'è una speciale anteprima, giusto Presidente? Sì, abbiamo voluto essere presenti anche quest'anno, anche se, come giustamente ricorda lei, in modalità online. Il Festival tornerà, speriamo, il prossimo anno nella sua veste tradizionale. Sono due giorni, domani, con un promo dedicato a tutta una serie di approfondimenti legati a quelle che sono le notizie di attualità, il commento ai decreti, tutte quelle attività collaterali poi alla grande kermesse del festival, che invece vedrà il suo centro, il suo fulcro il 23 al mattino dalle 10 alle 13. Possiamo dire che anche stavolta il Sole 24 Ore è al nostro fianco come media partner, quindi sarà seguibile sul sito www.ilsole24ore.com, oltre ovviamente al nostro sito www.festivaldellavoro.it. La ringrazio Presidente per averlo ricordato. No, volevo solamente così agli ascoltatori dire che non è che l'abbiamo invitata perché siamo media partner, ma perché ci interessano i temi che affrontate. Naturalmente, ringraziandola per averlo ricordato, sono naturalmente anche come dire, delle situazioni di reciproca collaborazione molto importante. Questo tema è un core business del Sole 24 Ore, di Due di Denari, e quindi è naturalmente particolarmente apprezzabile poi una collaborazione con i professionisti che si occupano del lavoro in Italia. Andiamo ai temi che affronterete, Presidente. Ce ne sono tanti. Chiaramente il mercato del lavoro è duramente colpito dalla pandemia. Poi andremo al focus sul tema del lavoro autonomo, che voi avete analizzato con grande attenzione, perché questa è una sfera, se parliamo di un mercato del lavoro nel suo complesso colpito dalla pandemia, la sfera del lavoro autonomo è davvero, per certe professionalità, non vorrei dire in ginocchio, ma ci siamo quasi. Presidente Calderone. Sì, devo dire che sicuramente il lavoro autonomo in questo momento è uno dei settori in cui si soffre di più. Il festival ha un obiettivo ambizioso, che è quello ovviamente di fare in modo che si riparta dal lavoro e che soprattutto sul lavoro si facciano i ragionamenti del futuro. Quindi certamente parleremo di tante cose e soprattutto cercheremo di comprendere che cosa ci aspetta nei prossimi mesi e soprattutto quale sarà lo scenario con cui dovremo confrontarci quando dovremo mettere in atto anche tutti i progetti legati al Recovery Fund e soprattutto alla ripartenza. Il tema del lavoro autonomo per noi è fondamentale, perché ovviamente quello che noi osserviamo in questo momento è un grosso affanno in una componente che invece paradossalmente nella crisi del 2010 invece aveva dimostrato grande reattività e si era assunta anche una responsabilità importante, quella di fare un po' da camera di compensazione rispetto alla crisi del lavoro subordinato. In questo momento non sta avvenendo, invece stiamo perdendo lavoratori autonomi, piccoli imprenditori, stiamo perdendo professionisti che in questo momento, da maggio a oggi, abbandonano l'attività professionale. Siamo già a meno 70.000 professionisti intellettuali e la nostra preoccupazione da ordini professionali prima di tutto è quella di guardare a cosa succederà a fine anno se non riusciamo ad avere risposte anche dal governo su quello che è il grande tema del sostegno invece a un settore che ha ancora preso poco e ha ottenuto poco invece in termini di attenzione e di investimenti. Colpisce, Presidente, soprattutto la fascia d'età che sta vivendo il momento critico più importante, quella fra i 30 e i 39 anni, e voi nel vostro rapporto dite che è un dato per l'appunto estremamente critico, perché riguarda proprio la fascia d'età in cui avviene il consolidamento, in genere, in alcuni casi l'avvio vero e proprio dell'attività in proprio, e quindi le difficoltà congiunturali, unitamente al carico di adempimenti burocratici e fiscali, rischiano di produrre criticità aggiuntive fino a determinare l'abbandono della stessa iniziativa imprenditoriale. Cioè, proprio nel momento in cui una persona mette, come dire, sul campo tutto il suo talento, intraprende un'attività, ecco che se non decolla questa, è chiaro che si chiude abbastanza rapidamente. Perché è importante fare un focus sul tema anagrafico? Beh, perché credo che sia fondamentale guardare a che cosa sta succedendo e soprattutto a quello che potrebbero essere le ricadute di scenario. Noi non ci possiamo permettere di perdere i giovani per strada, questo sia che siano destinati al lavoro autonomo oppure al lavoro subordinato. Noi abbiamo tutta una serie di indicatori preoccupanti, perché il tasso di abbandono nel mercato del lavoro, quindi il tasso di inattivi, sta aumentando. Nell'ultimo anno abbiamo avuto 1.300.000 inattivi in più, e in questo ovviamente c'è tutta la componente del lavoro giovanile e, come ricordava lei prima, la componente del lavoro femminile, che è assolutamente in sofferenza. La stessa cosa sta avvenendo nelle professioni, cioè laddove nella fascia 30-39 anni c'è proprio lo sforzo per consolidare, quindi per rimanere all'interno del circuito professionale. In questo momento, per tutta una serie di fattori, non ultimo anche la contrazione importante del fatturato e dei redditi degli ultimi mesi, perché noi nella nostra ricerca abbiamo proprio rilevato che l'80% dei professionisti ha perso reddito, e di questo il 35% di questo 80% addirittura ha perso più del 50%. Allora ecco che laddove devi fare investimenti, laddove in questo momento siamo in sofferenza e in tensione per la mole di adempimenti che i vari decreti che si sono succeduti negli anni comunque hanno riversato sulle nostre categorie, i consulenti del lavoro credo siano professione in frontiera in questo momento, visto e considerato che abbiamo gestito il 90% delle casse integrazioni in Italia, con una successione infinita di decreti e di circolari da interpretare. Chi è poco strutturato, chi si sta facendo, se mi consentite un termine poco tecnico, le ossa in questi anni, in questi periodi, ovviamente rischia di non farcela, perché poi non ce lo dimentichiamo mai che l'unica categoria che non ha avuto accesso al fondo perduto sono proprio i professionisti. È vero, ne abbiamo parlato tanto nei mesi passati, bisognerà rifletterci con grande attenzione. Grazie a Marina Calderone per essere stata con noi, lo ricordo ancora, Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, al via da domani con una anteprima speciale, il Festival del Lavoro per l'appunto, che poi vedrà la sua giornata centrale dopodomani. Grazie alla Presidente Calderone, noi andiamo al tema invece di approfondimento di questa mattina. Parliamo di lavoro con INAPP. Allora, saluto subito Sebastiano Fadda, presidente di INAPP, Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Attive. Presidente, più che benvenuto, bentornato. Buongiorno, a Due di Denari, buongiorno. Buongiorno. E allora, sentito, come dire, da molti fronti la riflessione sul tema del lavoro appunto è calda. Il tema che abbiamo scelto di affrontare con voi in questa puntata di questo mercoledì è il tema dell'attività presso i centri per l'impiego. Lei peraltro ne ha scritto anche diffusamente nelle scorse settimane per il Sole 24 Ore. Ricordiamo che noi dei centri per l'impiego abbiamo parlato moltissimo, soprattutto nell'ultimo anno, da quando è decollata tutta l'operazione complessiva di erogazione del reddito di cittadinanza, contestuale all'operazione appunto di questo strumento c'era anche l'attivazione dell'attività dei cosiddetti navigator, il grande concorso del giugno dell'anno scorso, e poi l'attribuzione di questi incarichi professionali presso i centri per l'impiego a livello nazionale. Dopodiché chiaramente è arrivato anche il Covid, Presidente, quindi necessariamente un po' questo tema forse è finito in secondo piano, ma è tempo di ripescarlo. Allora il punto è: Che cosa è successo in questi mesi? Come avete condotto voi le vostre ricognizioni con INAP rispetto a questa realtà? Hanno funzionato, non hanno funzionato? Diciamo che fino ad ora le critiche fatte a questo ambito non sono state particolarmente positive. Da che cosa ripartiamo, Presidente Fadda? Ma guardi, io partirei da questo. Bisogna ridefinire con chiarezza quali sono le funzioni dei centri per l'impiego, dei servizi per l'impiego in genere, perché noi abbiamo un paradosso, che io vedo, che c'è una concezione passiva delle politiche attive del lavoro. Sembra una condizione, una affermazione contraddittoria, ma veramente... Sì. Oh, abbiamo perso il presidente Fadda, adesso lo ripeschiamo, probabilmente magari con così involontariamente ha toccato il telefono che è andato in pausa, o magari l'ha chiamato qualcuno sotto, vediamo se riusciamo a ripristinarlo. Altrimenti direi di fare così, se Gianmarco Ferronato dalla regia è d'accordo, c'è Fadda? Non ancora? Allora facciamo una cosa, Gianmarco, andiamo a raccontare la borsa e poi ricominciamo dall'inizio con questo ragionamento, tra poco. Eccoci ritrovati in diretta, allora riprendiamo la nostra conversazione con il professor Sebastiano Fadda, presidente di INAP. Stavamo parlando della realtà dei centri per l'impiego, magari a qualcuno di noi è capitato di interfacciarci con uno di questi centri, che sono quei luoghi dove peraltro intanto bisogna andare ad iscriversi se si perde il posto di lavoro per ottenere l'ammortizzatore sociale, e dovrebbero essere anche quei luoghi in cui domanda e offerta di lavoro dialogano per poter far funzionare correttamente un mercato del lavoro efficiente. Negli ultimi anni però in realtà questi centri sono stati spesso colpiti da critiche. Professor Fadda, forse lei se le ricorda anche, c'era in passato chi diceva il centro per l'impiego serve solamente a dare lavoro a chi lavora nel centro per l'impiego. In realtà dovrebbe essere il fulcro di una politica attiva del nostro paese, che è l'altra faccia della politica passiva del lavoro, che è quella che eroga appunto gli ammortizzatori sociali quando il mercato del lavoro è in difficoltà. Che stato di salute hanno oggi? Qual è la sua considerazione su questo? Ma come dicevo prima, ci sono due, almeno tre ordini di problemi. Uno è un problema relativo al chiarimento delle funzioni che devono essere svolte dai servizi per l'impiego, dai centri per l'impiego. Due è un problema quantitativo di numero di addetti dedicati allo svolgimento di queste funzioni, e tre il problema delle competenze degli addetti rispetto alle funzioni attribuite a questo servizio. Ma il primo punto fondamentale è quello appunto di smettere di considerare, di avere una concezione passiva delle politiche attive del lavoro, dei centri per l'impiego. E dicevo, per esempio, prendiamo la funzione prima, che è quella della favorire l'incontro tra domanda e offerta. Ora, un modo passivo di intendere questo è che il centro per l'impiego semplicemente registrano, quasi con atteggiamento notarile, le domande di lavoro che arrivano da parte delle imprese e cercano di metterle in contatto con le offerte di lavoro che arrivano da parte delle persone in cerca di occupazione. Tutto questo non avrebbe bisogno di particolari esperti, perché basterebbe un piccolo software che in maniera gestito da una segreteria facesse questo collegamento. In realtà le persone addette a questo dovrebbero svolgere in maniera attiva una attività di interazione col sistema di imprese, della conoscenza dei fabbisogni delle imprese, una conoscenza dell'evoluzione di domanda del lavoro nel mercato del lavoro locale, legata alle dinamiche dell'evoluzione del sistema produttivo, dell'adozione di politiche di sviluppo del territorio e così via. Cioè le persone addette dovrebbero conoscere a menadito la dinamica economica, la dinamica dei fabbisogni del territorio su cui operano, di qualificazione, certo, del territorio, che si va, avere il polso della situazione, essere in grado di interloquire con le imprese, non avere semplicemente una funzione recettiva e totalmente passiva. Quindi questo richiede, certo, ma una secondo grande lei competenza le imprese Certo, sì. Ma prima, diciamo, lei parlava appunto di una, bisognerebbe che sia adeguata l'interazione con il sistema delle imprese, che molto spesso però preferiscono, evidentemente anche per la grande specificità di competenze che cercano ora, con tutta la rivoluzione digitale, fare delle selezioni dirette. Forse c'è anche un po' di sfiducia proprio dal sistema impresa che non consente un funzionamento adeguato del centro per l'impiego, oltre poi a tutto il tema delle competenze all'interno, sul quale adesso torniamo, Presidente. Ma l'impresa, secondo lei, che idea di questo istituto, dell'Istituto Centro per l'Impiego? Siamo a questo paradosso che le imprese si fidano poco dei centri per l'impiego, ma anche le persone in cerca di occupazione si fidano poco dei centri per l'impiego, per cui hanno una partecipazione così meramente formale e i canali attraverso cui si trova lavoro sono altri. E io penso che appunto per dare un impulso attivo a questo ruolo fondamentale, che ricordiamo è un ruolo che principalmente è di copertura dei posti vacanti, non è di creazione di nuovi posti di lavoro, perché questa creazione dipende dall'evoluzione, dalla crescita del livello di attività economica del sistema. Però questa funzione è importante, se svolta in termini attivi, richiede una competenza altissima dei lavoratori nei centri per l'impiego, e questo è un problema cruciale. Le competenze di solito vengono misurate sulle competenze legislative, giuridiche, di interpretazione dei testi, ma invece le competenze dovrebbero essere quelle di analisi della dinamica economica del territorio, di competenze manageriali, dovrebbero essere in grado di fare valutazioni molto accurate sulle qualifiche professionali richieste dalle imprese, e quindi nella quasi concorrenziali magari all'Agenzia per il Lavoro privata, professor Fadda. Esatto, direi come se fosse, come dire, il pubblico, ma che sì, esatto. Esatto, ma nello stesso tempo anche collaborativi, ci dovrebbe essere una rete di interscambio di informazioni e di informazioni e di iniziative su questo tema con servizi per l'impiego privati, diciamo, con agenzie del lavoro. Prendiamo l'orientamento, la formazione, come si fa? I servizi, i centri per l'impiego dovrebbero anche avere un ruolo attivo nella pianificazione dei servizi formativi, perché abbiamo un sistema di formazione professionale che non è allineato con i fabbisogni professionali delle imprese. Allora i centri per l'impiego dovrebbero non soltanto provvedere a orientare, indirizzare i lavoratori su percorsi formativi coerenti con l'evoluzione dei fabbisogni professionali, ma dovrebbero anche fornire un input alla programmazione delle attività formative, perché queste siano coerenti con quanto serve alle imprese. Quindi il contatto con le imprese non è soltanto un contatto relativo alla domanda quanti posti di lavoro, quanti tornitori o quanti esperti di informatica richiedete, ma una conoscenza delle qualifiche professionali dettagliate che sono richieste dalle imprese, e i centri per l'impiego dovrebbero trasferire questa informazione ai centri dove si programma la formazione, le iniziative di formazione, che molto spesso invece prescindono da quelli che sono i fabbisogni reali. Questo ruolo di connettore del centro per l'impiego, di connettore tra le politiche attive del lavoro e le politiche di sviluppo, le politiche industriali, le dinamiche delle imprese, è veramente trascurato e forse è impossibile da realizzare per le competenze attualmente disponibili, ma è questo che ci consente di fare un salto da una concezione passiva a una concezione attiva dei centri per l'impiego. Io mi auguro che nelle nuove assunzioni, sono circa 11.600 le assunzioni previste, prevalga tra i requisiti l'accertamento, tra i requisiti richiesti, il possesso di queste competenze legate alla familiarità con le imprese, all'analisi del mercato del lavoro, alle proiezioni e alle stime dei fabbisogni professionali futuri, della loro evoluzione. Certo. Professor Fadda, naturalmente noi questa mattina parliamo al condizionale, cerchiamo un po' di dare un'idea di quello che questo mondo dovrebbe essere, nel frattempo però ci scontriamo con quello che questo mondo è in questo momento. Quanti sono gli operatori pubblici in Italia oggi rispetto a quanti sono per esempio in Germania, 10 volte tanto, in Francia, nel Regno Unito, eccetera. Sul tema delle competenze, però, mi colpiva molto il suo ragionamento, perché per la verità, anche se tutto l'impianto dell'operazione Navigator di un anno e mezzo fa è stata accompagnata da tante polemiche, in realtà tutti i giovani che hanno fatto il concorso per svolgere questa professione si sono presentati alla prova concorsuale con delle grandi competenze. Non sono proprio degli scappati di casa quelli che hanno voluto cimentarsi con questa prova per poi dare il loro contributo in un momento successivo ai centri per l'impiego per trovare appunto lavoro per altre persone in difficoltà. E quindi non è stato fatto un piccolo salto in avanti sulle competenze presso il centro per l'impiego grazie all'arrivo dei Navigator? Lei dice di no? Ma queste competenze sono state definite sempre in termini di titolo di studio e poco in termini di esperienza già sperimentata, di ricerca, di analisi sul mercato del lavoro. Punto due, ancora manca una identificazione delle competenze richieste a seconda dei fabbisogni dei singoli centri, perché ci sono centri in cui ci sarà carenza di competenze rispetto a funzioni che so, di orientamento psicologico, e centri invece in cui ci sarà c'è carenza di competenze rispetto a funzioni relative al dialogo con le imprese, all'analisi del mercato del lavoro, oppure alla progettazione di iniziative formative. Il punto chiave di questi, il punto più critico dei Navigator è che questa funzione loro attribuita non è una funzione individuale, non può esistere un Navigator. Il Navigator è una funzione di equipe, di team, è un'equipe dove c'è lo psicologo, il sociologo, l'economista, l'esperto in politica industriale, l'esperto in formazione, è un team che si prende carico di della persona in cerca di occupazione e utilizzando tutte le competenze e le interconnessioni che questi soggetti, il psicologo, il sociologo, l'economista, l'industrialista, l'esperto in management, eccetera, le connessioni che questi hanno con i relativi mondi, quindi il mondo delle imprese, il mondo della formazione, il mondo dell'innovazione tecnologica e così via, definiscono un percorso o di orientamento al lavoro o di inserimento al lavoro o di inserimento in attività formative oppure anche di stimolo della iniziativa imprenditoriale autonoma, che è un fatto da non trascurare, ma è una funzione collettiva, non esiste un individuo, esatto, che abbia tutte queste competenze e tutte queste conoscenze. Chi conosce un'impresa può non avere esperienza di rilevazione degli atteggiamenti, delle attitudini psicologiche dell'individuo, più o meno propenso al rischio, più o meno disposto a lavorare in team, più o meno disposto ad acquisire nuove competenze e così via. Quindi sono funzioni che devono essere integrate, ma non possono essere tutte in capo ad una persona. Quindi, allora, professor Fadda, ci dobbiamo fermare perché c'è il traffico, poi completeremo questo ragionamento. Nel frattempo, non l'ho fatto fino ad ora, ma naturalmente gli ascoltatori possono intervenire in diretta all'800240024. Abbiamo ancora qualche minuto da trascorrere insieme. Raccontateci qual è l'ultima volta che siete entrati in un centro per l'impiego, qual è l'esperienza che avete portato a casa, che avete registrato, siete stati soddisfatti della consulenza che vi è stata data, delle opportunità che vi sono state proposte, e avete fatto qualche conversazione con un Navigator oppure era una figura così di secondo profilo che accompagnava tutte le altre professionalità nell'ambito di un centro per l'impiego e non ve ne siete neanche accorti che ci fosse? Aspettiamo le vostre testimonianze, a tra poco. L'ultima parte della nostra conversazione con il professor Sebastiano Fadda, presidente di INAP, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Attive, con il quale qualche mercoledì fa abbiamo inaugurato questi nostri appuntamenti di approfondimento sulle tematiche molto ampie del lavoro. È un momento difficilissimo e quindi chiaramente il tema del lavoro va affrontato da diversi punti di vista. Abbiamo bisogno purtroppo di molti ammortizzatori sociali in questa fase. La pandemia sta veramente rendendo problematica la condizione dimostrazione di molte professionalità e in più abbiamo strumenti vecchi che non funzionano come dovrebbero funzionare. Questa mattina stiamo riesaminando un po' il tema del centro per l'impiego, che è stato di nuovo riportato alla ribalta della cronaca, lo ricordavamo prima, proprio un anno e mezzo fa con l'operazione reddito di cittadinanza / concorso per i navigator, che dovrebbero aiutare soprattutto le persone che ricevono il reddito di cittadinanza ad essere reimmesse nel circuito del lavoro. E invece, professor Fadda, forse il tema è anche che del centro per l'impiego abbiamo un'immagine un po' vecchia, è l'ufficio di collocamento presso il quale andarsi ad iscrivere se si perde il lavoro, altrimenti non si riceve l'ammortizzatore sociale. Forse bisognerebbe fare una campagna anche di rinnovo di immagine di queste istituzioni, di questo istituto. Cosa ne dice? Dovrebbe raccontarsi un po' meglio questa realtà? Sì, non c'è dubbio, però la realtà dovrebbe anche essere migliorata e deve essere raccontata meglio, ma deve essere anche migliorata in sé. I due processi devono andare insieme. Per migliorarla bisogna, a mio parere, investire sulle competenze. Siamo in un periodo storico, in un momento in cui tutte le competenze sono soggette a un processo di upgrading per il cambiamento delle tecnologie, per il cambiamento della struttura produttiva, e quindi anche le competenze degli operatori del servizio per l'impiego devono essere aggiornate in quelle dimensioni che dicevo, e per questo bisognerebbe potenziare un ruolo, diciamo, a livello centrale, a livello nazionale, di elaborazione di modelli di intervento da parte dei centri per l'impiego, di diffusione delle migliori pratiche osservate sia in Italia sia all'estero, di presentazioni di strumenti nuovi per lo svolgimento di questo ruolo, e quindi un po' una funzione di coordinamento e di formazione, predisponendo anche iniziative concrete di formazione per il personale di centri per l'impiego. E poi però l'attività operativa stretta dovrebbe essere demandata a livello locale o quello regionale o addirittura subregionale, perché è lì che esistono le domande di lavoro, ferma restando la mobilità del lavoro anche geografica, che dovrebbe essere garantita e favorita anche da una capacità di dialogo tra i diversi sistemi informatici delle regioni. Adesso dialogano poco, questo è un altro problema che ci porta alle tecnologie che dovrebbero garantire l'interconnessione e l'accesso ai dati, il linguaggio comune, tutti i centri per l'impiego, però essenzialmente sono sul territorio, sulle politiche di sviluppo del territorio che si costruiscono nuove occasioni di lavoro e si individuano nuove professionalità, quindi l'operatività deve essere sicuramente centrata a livello territoriale, regionale o sud, però un ruolo di coordinamento, un ruolo di formazione, un ruolo di elaborazione di modelli, di indirizzo, di coordinamento dovrebbe essere svolto a livello centrale, con una qualche forma di cabina di regia presso il Ministero, insomma, utilizzando il mondo dell'AMPA. Certo. Ho detto due volte, professor Fadda, descrivendo INAP, Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Attive, invece che pubbliche, mi scusi, questa mattina mi è andato un po' così in tilt anche il cervello, dovrò portarlo in un centro per l'impiego appunto per rimetterlo in sesto, me ne scuso, ma insomma sono dei refusi politiche che ci capitano quando... Sono sempre politiche pubbliche, anche le politiche attive del lavoro, sono anche quelle. Esattamente, infatti. Allora, professor Fadda, un'ultima domanda, poi andiamo verso la conclusione. Abbiamo appena un minuto di tempo per completare il nostro ragionamento. Il centro per l'impiego del domani, quale dovrebbe essere? Adesso qua potremo di nuovo riscrivere un trattato, naturalmente lei le sue idee ce le ha espresse chiaramente, ma viviamo un momento di grandissima difficoltà in cui forse non c'è neanche grande lucidità per mettere mano a cambiamenti che dovrebbero essere particolarmente significativi, ma in ogni caso questo paese dovrà ripartire dopo la pandemia. Che ruolo può avere un centro per l'impiego sul territorio, visto che peraltro poi le regioni rivendicano sempre con grande forza la loro autonomia anche nel trattare questi argomenti come quello del lavoro oltre che quello della sanità in questa fase? Il centro per l'impiego del domani post pandemia, come lo vede? Centro per l'impiego per domani lo vedo come un come si dice, one shop floor, come un un palazzo, una sede dove possono rivolgersi sia le imprese sia le persone in cerca di occupazione, perché sanno che c'è una abbondanza di dati, una centrale, un hub di informazioni non soltanto sui fabbisogni attuali ma sull'evoluzione del sistema produttivo, dei fabbisogni professionali e dei fabbisogni formativi, e quindi possono avere in questo luogo un supporto per l'erogazione di tutti quei servizi, certo, che servono sia alle imprese sia ai lavoratori per far incontrare meglio la domanda e l'offerta di lavoro e per promuovere anche iniziative imprenditoriali, promuovere e assistere in iniziative imprenditoriali autonome, perché questo settore dell'attività lavorativa sarà sicuramente in espansione. Esattamente, grazie a Sebastiano Fadda per essere stato con noi, la dobbiamo salutare. Naturalmente voi continuate a frequentarli però se avete bisogno, perché in un mondo che naturalmente è perfezionabile, perfettibile, ci sono anche delle realtà che funzionano perfettamente nel nostro paese. Due di Denari termina qui, ci sentiamo domani con Investire Informati. A tutti una buona giornata. Programma realizzato in collaborazione con INAP in qualità di organismo intermedio del Fonus PAO con il contributo del Fondo Sociale Europeo.